24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Eccolo, ho deciso che dobbiamo iniziare così tutti i giorni con questa fotografia di vari anni fa, molto attuale, di Roberto Benigni, che riassume in modo molto attuale quella che è la politica di oggi. E chiacchiere, incontri, la riforma elettorale, chiacchiere. Tra oggi o forse domani c'è l'incontro Renzi-Letta sul tema impegno 2014. Quando l'ho letto sono stato percorso da un brividino di entusiasmo. L'incontro Renzi-Letta, che brividini! E poi c'è Letta che incontra tutti i partiti, il capogruppo di Scelta Civica, il capogruppo di NCD, il capogruppo di Forza Italia. Renzi dall'altra parte incontra quelli più importanti, Monti di Scelta Civica, poi Alfano, poi... Ma che bisogna fare un governo? Che sono le consultazioni? Non ho capito niente, cioè, non c'è già un governo che dovrebbe... Non si sa, è tutto un gran chiacchiericcio. Si incontrano, parlano. E di che parlano? E di, boh, delle cose da fare. E le cose da fare non le fanno. E questo è. Va bene, mi sono svegliato così oggi, cari ascoltatori, ma guardate che leggere i giornali non è che è molto diverso. I commenti che trovate sull'attuale situazione politica. Va bene. Alle 6:32 minuti, questo è 24 mattino. Voglio salutare Miriam Lucchetti, come sempre, in redazione. Il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che apre subito la serranda. Lui che ha le braccia forti, gioca a football americano. Quindi. Cioè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Che è? Giocavi? Ha appeso la palla ovale a chiodo. Ma che hai fatto? Vabbè, giocava all'alpino anche a football americano. Giocava, io mi risultava. Mi spiace, cioè, sei ritirato. Vabbè, so. Allora, voglio salutare, riappaiono nel 2014, Alessandro Giglioli, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, eccomi riapparso. Eccolo riapparso con il suo Piovo Norane e il suo Espresso giornale per cui lavora adesso, Giglioli, no? A quest'ora del mattino le parole grosse non usiamo. No, infatti. E voglio salutare. Ecco. Voglio salutare anche il vice direttore di un giornalaccio libero, Massimo De Manzoni, ben ritrovato. Giornalaccio perché? Buongiorno. Giornalaccio, sai chi ha definito giornalaccio il vostro giornale? Prova a indovinare chi lo definisce oggi un giornalaccio. Forse un regista. Dove sei? Sei in una cantina, Massimo? No, perché si sente male. Sì, un pochino, adesso si sente meglio. Non so se il giornale è scadente, ma la linea sicuramente dobbiamo ripristinare. No, Massimo, sì, forse un regista. Pronto? Paolo Virzì. Va meglio così. Paolo Virzì. Pronto? Ti sentiamo. Noi ti sentiamo benissimo. Cioè, che c'è? Ma che c'è? La linea, sulla parola. Ci senti Massimo? No, ti dobbiamo richiamare. Vabbè, ha messo giù, vedi, Giglioli. Che ma no, ha messo giù, gli è caduta la linea, poraccio. Sì, no, ha messo giù perché non ci sentiva. Il giornalaccio Paolo Virzì, tirato in ballo in questa polemica. Io ieri quando l'ho visto ho detto, no, la polemica sulla Brianza operosa, sulla ricchezza, sulla freddezza della Brianza. No, iddio, qualunque iddio esista, ci scampi da questa polemica. E invece no, ma adesso lo recuperiamo. Tu, Giglioli, hai letto di questa polemica? Sì, ma io ho anche avuto una fidanzata a Brianzola da giovane, quindi ci sono i conflitti di interesse. Ho anche vissuto. Adesso non è che voglio fare lo sborone, ma io due ne ho avute. Io ho vissuto un anno a Monza, quindi conosco abbastanza la Brianza. No, la Brianza c'è il problema del paesaggio, secondo me l'hanno distrutto. Poi le radicalizzazioni della Brianza doveva essere bellissimo cent'anni fa. Si vedono ancora dei pezzi ogni tanto. Forza Brianzoli, tutti contro Giglioli, difendete la Brianza, dai, via sms 349-238-6666, raccontateci del parco, non lo so, del parco di che parco. Guarda, ci sono dei tratti ancora meravigliosi, poi purtroppo è stata capannonizzata in un modo selvaggio. Capannonizzata, eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Massimo, ci siamo. Ci senti, sì. Che succede oggi con la linea? Massimo, noi ti sentiamo bene. Ah, eccoci qua. Allora, Paolo Virzì vi ha definito un giornalaccio. Sì, Paolo Virzì sarei un po' presa con noi perché noi l'abbiamo un po' criticato, diciamo così, no? Sì, ma lui sai cosa dice oggi sul Fatto Quotidiano? Dice: mi ritrovo con una farsa di basso conio sbattuta su un orribile giornalaccio, orribile giornalaccio, una discussione grottesca sulle offese che una storia ambientata in una località immaginaria e inesistente avrebbe recato alla Brianza. Cioè, tra l'altro dice, ho preso spunto da alcune cose della Brianza, ma mica in Brianza, è una cosa immaginaria. Insomma, cioè... è un classico, no? Prima fanno delle cose, poi le dicono anche, le dichiarano. Cioè, carta canta, ha dato delle dichiarazioni alla Natalia Aspisi su Repubblica, poi la gente della Brianza si arrabbia, si fa retromarcia, noi andiamo a esplorare la cosa e rivediamo anche che questo film l'ha fatto anche con i soldi di quelli della Brianza, perché in Italia un film senza un finanziamento pubblico praticamente non riescono a farlo. Sì. Poi si arrabbiano pure. Sì, un giornalaccio, uno così, è quasi una medaglia. Sì, no? Sì, ma poi devo dire, è tutta pubblicità il film, parliamoci chiaro. Poi stavo per chiedervi quanto vi ha dato il infatti, qua, infatti due, poi no, a me niente, io ne parlo. Massimo, di la verità, in realtà sotto banco vi ha dato un po' dei 700.000 euro del finanziamento pubblico per far parlare del film, questa in realtà parlare col direttore commerciale, no? Vabbè, non si sa. Comunque c'è questa polemica e quindi approfitto della presenza del vice direttore dell'orribile giornalaccio per affrontarla. In realtà io vorrei chiedervi cosa ne pensate di questo momento della politica. Noi lo sintetizziamo con il Benigni, vogliamo in Bucatini la Matriciana, il presidenzialismo alla francese, eccetera. Oh, ma non si capisce più niente, ogni giorno pagina 3 del Corriere oggi, pasticcio sul decreto Salva Roma, pagina 5, pasticcio sui 150 euro ai professori, qua Giglioli, di pasticcio in pasticcio. Se vuoi ti sintetizzo la mia opinione, sì. in un tweet, no? Ecco. Il governo inanella una marea paurosa di cazzate, dalle slot machine agli insegnanti, qualcuno se ne accorge, e qui bisogna dire spesso questo qualcuno, sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle o altri, e a quel punto interviene Renzi e dice: no, ma avete fatto una cazzata, e a quel punto Renzi diventa un eroe. È bellissima la dinamica, cioè si fa una cazzata, qualcuno la scopre, lui la blocca e questo acquista. È una straordinaria campagna che lei sta facendo. E infatti il titolo oggi di Repubblica forse è più efficace: Renzi scrive l'agenda del governo. Cioè Massimo De Manzoli sta dettando legge e agende Renzi, è un po' così, sembra. No, si accorge delle cose lui, dice: no, fermate questo, e subito: no, correggete quest'altro, e tutti a rimediare. Cioè, chi è? È in parte così, ma cioè, devo dire che è molto facilitato. È un governo pasticcione in maniera incredibile, cioè, perché adesso è venuto fuori quello dei professori, il decreto Salva Roma di fine anno, ma sulle tasse della casa sono andati avanti tutto l'anno praticamente, da quando sono in carica fino ad oggi non le hanno ancora risolte, la gente non sa ancora cosa deve pagare e quanto deve pagare. È chiaro che è un governo talmente pasticcione che chiunque sembra un gigante ai confronti. Quindi ogni stupidaggine che fanno, Renzi, che oggettivamente è molto più sveglio di alcuni dei nostri ministri, sì, probabilmente anche del Premier, e soprattutto ha un grandissimo interesse a mettere i diti custodita nella piaga, nelle varie piaghe che si aprono, lo fa con... Lo fa, no, no, ma è chiaro, approfitta della situazione. Tra l'altro, Alessandro, ecco, vedi, subito ho convocato i Brianzoli via SMS, il parco di Montevecchia, effettivamente è straordinario, sei mai stato con la fidanzata di allora, collina delle... straordinario, Montevecchia. Anzi, a dire la verità, aggiunge il messaggio, viene a vedere comunista Giglioli. Quindi... Comunista, ma perché? È stato a quelli di sinistra? No, perché forse è attaccato alla Brianza, allora viene a vedere comunista. O forse ma io sei... non l'ho attaccato, ho detto che era... Tu hai attaccato la Brianza, è stata capannonizzata. Andate a vederla, e vabbè, è stata... non è colpa mia. È stata rovinata. Poi scrivi sull'Espresso, quindi sarai un po' comunista, lo saprai. Questo è il motivo. Allora, no, comunque, cioè, adesso. Comunque, comunista non è un insulto, magari. No, ma infatti non è. Politica superata, però vorrei che tu leggi. Cos'è, Massimo? È un ingentilimento, non so, neanche un complimento. Allora, che fascista non è un insulto, se non si dà. Ecco qua. No, io qui la vedo un po' diversa, ma comunque è una storia d'Italia. Comunque ognuno per me. Uno è felice di essere fascista. No, discussione. Ma direi che questa del mattino l'hai dichiarata. No, discussione attualissima soprattutto. Allora, una cosa invece, certo, devo dire che è apparsa e si profila nel cosiddetto Jobs Act, il piano lavoro che prevede Renzi. Una cosa mi è piaciuta, sono state date le anticipazioni dallo stesso Renzi ieri sera. Una cosa, cioè la possibilità di togliere il tempo indeterminato ai dirigenti di Stato. Forse, cari Giglioli e De Manzoni, è un modo per togliere questa burosauria, non lo so neanche come definire, questi burosauri di Stato che, no? È una buona cosa, Giglioli? Ma i dirigenti del privato sono tutti licenziabili, anche perfino nel nostro mestiere, che è uno dei più privilegiati, quello dei giornalisti, dal vice direttore in su si è licenziabili perché considerate figure apicali. Non si capisce perché lo Stato deve essere l'unico datore di lavoro al mondo in cui i dirigenti non si assumono la responsabilità delle loro azioni. Che poi spesso i dirigenti si parino il culo fra loro è un altro problema di ordine pratico, di ordine, come dire, delle cricche italiane, quindi non si licenziano spesso. Sì, ma anche questa cosa... Almeno il principio, insomma. Il principio, sì, ma anche questa cosa dei 150 euro, ora sui giornali dei 150 euro dati, tolti agli insegnanti, rimessi. Mi sembra di capire, perché De Manzoni, la carrozza, cioè il ministro Carrozza dice non ne sapevo nulla. Saccomandi dice guardate che noi paghiamo solamente su istruzione dei ministeri, quindi è stato il ministero a non dirci nulla e noi quindi abbiamo eseguito questa cosa. Cioè adesso c'è un rimpallo tra ministri come responsabilità politica, ma sono i burocrati, sono quelli, i ministri non sanno niente di queste cose, o no, o mi sbaglio, Massimo? Cioè non è che il ministro sa come funzionano queste cose burocratiche. No, piano. I ministri partecipano ai consigli dei ministri e dovrebbero anche ogni tanto stare attenti a quello che dice il compagno di banco, insomma. Per cui nel caso specifico, da quello che risulta, almeno in un preconsiglio di questa cosa si era parlata, se non a settembre come sostiene qualcuno, quantomeno a dicembre, per cui... le meraviglie della carrozza all'alba del 2014 suonano un tantinello false, a mio modo di vedere. Detto questo, anch'io ce ne sono altre cose che a me piacciono nel Job Act, anche se non riesco a capire perché si chiama Job Act. Perché gli piace così di più all'americana, la riforma del lavoro. A me piace moltissimo anche il fatto che vogliono abolire l'IRAT, mi piace persino la riduzione dei tempi dei tipi di contratto, fatto in certi modi anche la fine di disoccupazione. Il problema vero è farle ste robe qui. Insomma, questo è sul piano, cioè si spera sì. se è una cosa che poi venga discusso. Allora, venga... Non è il primo piano sul lavoro che vede la luce, non è il primo piano sul lavoro che viene buttato per aria. In particolare dai sindacati. È per quello che l'ha chiamato Jobs Act, per fregare tutti, perché adesso approviamo il Jobs Act e quindi tutti rimangono fregati. Caro Giglioli, se non ci fossero i capannoni in Brianza, vorrei vedere il PIL italiano, capito? qua non c'è, questa è una visione, una vecchia visione, come qua, dire, qua non c'è scritto comunista, non c'è scritto comunista, ma in questo, anche in questo, le sue ragioni, anche in questo, che magari tutelare insieme il paesaggio, il potrebbe essere una buona idea. Posso dire una cosa su quello che sì, vi siete appena detti? Perché lungi da me difendere Saccomanni e Carrozza, per carità, specialmente sì, Saccomanni, però noi giornalisti spesso sottovalutiamo il ruolo del corpaccione della burocrazia. No, no, romana, no, no, no, anzi, anzi. Perché questi, secondo me, li hanno fatti apposta. Una delle cose che si sente spesso dai politici è questa cosa che della difficoltà di mettere le mani nelle cose, perché esiste una, come dire, un corpaccione eterno di burocrati ministeri, di altissimi burocrati ministeriali, che hanno assunto negli anni, vuoi anche per la conoscenza delle technicalities che spesso sfugge ai politici. Un ruolo incredibile. Poi non so come è andata questa volta, e penso che comunque il governo sia sempre responsabile di quello che fa, se è ben chiaro. Sì. Saccomanni, Carrozza, responsabilità politica totale, anzi Saccomanni avrebbe fatto miglior figura a chiedere scusa pubblicamente, ma in generale non sottovalutiamo. No, no, no, ma guarda che non lo sottovalutiamo, tanto che io ci sono stati fatti anche editoriale a raccontare proprio questa cosa, ricordo uno di Giavazzi a dire stronchiamo questo superpotere, i burocrati sono i veri, quelli che hanno il potere nei ministeri, quelli che si perpetuano negli anni. Ti dirò, non avrei neanche il dubbio a pensare che qualcuno l'abbia fatta apposta. Sono un po' sospettoso. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi, caro Massimo De Manzoni, ti facciamo sentire anche la voce di Virzia e quindi ti rallegriamo proprio la giornata dopo il traffico e la segreteria. 24 mattino. Presidente Letta, la prego, non mi lasci nel dubbio. In questo 2014 mi dica con che soldi ha pagato il panettone che ha mangiato a Natale. Grazie. 20 milioni per le guardie forestali e i forestali in Sicilia. È solo l'ultimo episodio. Adesso basta. Basta, ne abbiamo le palle piene. E vabbè, le tasse in questo nostro paese è diventato un dovere. Un dovere. Perché ci stanno massacrando. 4 milioni e 500 mila impiegati statali ci stanno portando alla rovina. Se si vuole sopravvivere bisogna evadere, non bisogna pagare più niente, ha capito? Forse così gli daremo qualche lezione. Prima aumenti folli annunciati, pretesi per le autostrade, reazione, allarme, calma. Quando il ministro delle infrastrutture Lupi ha detto che in fondo avevano chiesto 9-10, gliene concediamo 4. Bene, forse la gente non sapeva che il ministro delle infrastrutture Lupi è uno al quale di questi aumenti non ne frega niente, perché lui viaggia gratis come ministro e in più guadagna 320.000 euro all'anno, come risulta dall'annuario della Camera dei Deputati. Udite, udite e riflettete, gente. Basta tassi, tari, tasso. Non ci capiamo più niente, a lavorare, barbuno, a lavorare tutti, vi fa bene. Ma con chi ce l'ha questo signore? Ma chi lo sa? Vabbè, siamo con Alessandro Giglioli, Massimo De Manzoni. Allora Massimo, eccolo qua, Virzì, senti, non è sfumato nel suo convento, senti. Il tutto ha un valore abbastanza più metaforico, quasi da Apollo, certo. Poi in realtà appunto è quasi da romanzo, non è proprio un documentario sulla Brianza, però sono convinto che queste persone, questi assessori locali, quando vedranno il film si rassereneranno, esatto. Capiranno, senti, che la polemica è fondata sul nulla. Hai capito, polemica sul nulla, vabbè. Ma poi che poi nessuno l'ha visto ancora, c'è stata l'anteprima, esce oggi se non sbaglio, quindi boh. Massimo non c'è più, è andato in Brianza, non è arrivata la linea. Non è. Oggi ma di solito si sente benissimo, vabbè, che dobbiamo fare? Allora, introduciamo l'argomento che da giorni noi ne parleremo anche alle 8:15. Tu, caro Giglioli, gran cannaiolo, sei a favore? No, vabbè, cancello la battuta. No, io ieri ho detto, no, vabbè, gioventù ci ho dato, mica mi vergogno. Ma come ci ho dato? Allora, io la ribadisco anche oggi, ne parleremo alle 8:15. Non è che chi sia a favore della liberalizzazione perché è un cannaiolo, vuol farsi le canne. Cioè c'è anche chi, come scriveva ieri Filippo Facci su Libero, è a favore della liberalizzazione, ma pur sapendo che la droga fa male, che pur non avendo alcuna attrazione per la droga. È una questione, come dire, sia di principi filosofici sia magari anche economici. Tu cosa ne pensi? È una questione di lotta alla criminalità. Anche economici, appunto. Io direi, secondo me è la cosa prioritaria. È una questione di togliere in primo caso i più preoccupati delle possibili forme di legalizzazione, che ovviamente possono essere graduali, sono proprio le malavite organizzate. Comunque io farei delle sperimentazioni, vediamo queste sperimentazioni vediamo 5-10 anni e proviamo. Io penso, a parte le battute, personalmente sono 20 anni, almeno 20, forse di più, 25 anni che non vedo sostanze allucinogene leggere, quelle pesanti, sì. Purtroppo non le ho mai viste, ma in ogni caso il problema è vedere come vanno queste. Guarda, io tra l'altro ogni tanto vado in paesi dove, non so, se tu vai nel Bhutan, nel Bhutan ci sono le piante di marijuana che crescono ovunque, vicino alle strade, le danno, la danno ai maiali per farli ingrassare, perché la marijuana è notoriamente ingrassa. E non è che ci sia questo consumo maggiore di quanto che delle schifezze che arrivano da noi tagliate con la cacca di cane. Io credo che sarebbe abbastanza opportuno vedere questa cosa in un'ottica pragmatica, vedere se queste cose migliorano o peggiorano la società, se c'è un aumento di consumo di droghe, e soprattutto vedere se va a beccare quello che è il male maggiore del nostro paese. Intanto devo dire, Massimo, l'abbiamo recuperato, Massimo di Manzo, oggi le linee in Brianza, no, non l'abbiamo recuperato, vabbè. Tra l'altro, prima di farti sentire un paio di audio, ci sono due commenti, senti un po' sulla burocrazia, visto che abbiamo affrontato Alessandro. Sono un ex consigliere provinciale, ci scrive uno via sms, confermo lo strapotere anche politico dei dirigenti, l'unica arma che si e spostarli. Oppure un mio amico ex assessore, questo è un altro messaggio, dice che se lo rifacesse inizierebbe subito a bastonare i dipendenti comunali che appena annusano aria di cambio iniziano a darti contro. Vabbè, adesso bastonare si intende metaforicamente. Credo che abbia abbastanza ragione metaforicamente. Questo vale anche un po' nelle aziende private, poi è più facile spostare le persone. Cioè la propensione al nuovo delle persone che stanno da 20-30 anni in una struttura è no, ma certo, la resilienza, no? Ti piace questa cosa? Sì, un po' diverso il concetto di resilienza, ma quest'ora non ammorbiamo. Mi piaceva. Non c'entra una mazza. È la resistenza, il cambiamento. E come no? Siamo accusati di dire. Mi piaceva, così mi è venuta in mente la resilienza e quindi volevo dirla. L'abbiamo recuperato, Massimo. Sì, mi sono perso virgolì. Ti sei perso, te lo faccio risentire. No, basta. Te lo faccio risentire. Ve lo faccio risentire il tormentone. Oggi non abbiamo il brunetta del giorno da mandare, quindi Virzi. Il tutto ha un valore abbastanza più metaforico, quasi da apologo, certo. In realtà, appunto, quasi da romanzo, non è proprio un documentario sulla Brianza. Però sono convinto che queste persone, questi assessori locali, quando vedranno il film, si rassereneranno. Capita? Un apologo, Massimo, un apologo. Non avete capito niente, è un apologo questo. Io non ho neanche visto il film, non posso averlo capito. Io so quello che lui ha dichiarato e che poi i suoi cantori di Repubblica hanno scritto, insomma, cioè carta canta, le cose che lui ha detto e che sono state scritte sulla Brianza, sul motivo per cui ha ambientato il film lì e sul fatto che lì ci sono quelli che i nemici dell'Italia, sono nero su bianco, smentisca quelli, prenda con noi. Tra l'altro oggi noi abbiamo un pezzo con Guido Boni, darà un suggerimento, guarda che l'ultimo grande scandalo finanziario, visto che della finanza si voleva parlare, non del sistema produttivo che invece c'è in Brianza, è stato ai Parioli con Madoff che ha truffato amici di Virzì, tra l'altro, per cui poteva anche stare lì e c'era poca fatica. Mi sembra giusto. Facciamo questa battaglia proprio, come dire, nord contro sud, anche un po' così. recuperiamo. No, che c'è? No, io devo farvi sentire Bossi. Perché adesso stiamo parlando della legalizzazione. Ah, tra l'altro, tu, Massimo De Manzoni, sei a favore o contro la legalizzazione? Che, come la vedi? Guarda, io ho una posizione personale, sì, moderatamente a favore, anche se ho anche delle perplessità. Sul giornale stiamo ospitando un dibattito appunto in questo senso tra chi è a favore e chi contro, certo, invece è contro. Ah, no, ieri era interessante, Filippo Facci l'ho letto con grande interesse, cioè a dire che non è che chi è a favore è perché è un cannaiolo come Giglioli, no, un ex cannaiolo come Giglioli. Però perché voi invece andavate soltanto col petto. No, devo dire, sono uno di quei rari casi, l'ho provata così con amici, sai, quando passa, ma mi ha fatto schifo. Ma non ho aspirato, come diceva Giglioli. Ma non ho aspirato e quindi avrò provato due volte, non mi è piaciuto e basta. Questa è la mia. Posso dire che da quando l'abbiamo provata noi, probabilmente è cambiata parecchie cose da quello che mi dicono oggi. Noi ospitiamo un articolo di un prete, Don Chino Pezzoli, che si occupa di queste cose, della una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, eccetera, che avverte. Questo è vero, hai cambiato, cioè, il principio attivo. Non è mica quella roba lì, adesso le canne sono una roba pesante. Questo è vero, comunque, Umberto Bossi, sentitelo. A lei non è mai capitato di farsi uno spinello? No, infatti i toscani, bisogna anche bruciacchiare. I toscani mi sono anche bruciacchiato, non ho capito, vabbè, mi sono bruciacchiato. E poi Giovanardi non può mai mancare, Giovanardi in chiusura, sentite Giovanardi. Questa idea fissa di dire che il bicchiere di Lambrusco o il bicchiere di vino che fa bene alla salute, come eccolo, tutti i medici stanno lì a testimoniare, quindi l'uso moderato anche dell'alcol, anche la canna, Giovanardi, fa, mentre così invece, la bottiglia mentre fa un po' meno bene, la, ecco, bottiglia intera. E lì invece dice una cosa falsa, perché tutti i tossicologi sono venuti a spiegarci che dalla cocaina... Ah, va bene, no, guarda, comunque Lambrusco fa bene, questo è il suo cavallo di battaglia, poi lui è di Modena, Lambrusco fa bene, un bicchiere di Lambrusco. Va bene, dai, vi devo salutare, grazie Alessandro Ciglioli dell'Espresso, grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, l'orribile giornalaccio per Paolo Virzì. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, è tempo di Giornale Radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18, cari ascoltatori, ben ritrovati, forza, mi raccomando, razza di debosciati, se non vi siete ancora svegliati, siete con le tazze del caffè ancora, tutti affaccendati a uscire, accompagnare i figli a scuola, andare a lavorare. Dai, come sempre di più vale lo schema Allegri, dai, forza, dai! E allora vi ricordo che oggi parleremo del dibattito che si è rianimato sulla legalizzazione della marijuana, un dibattito che si è riacceso in Italia dopo che un assessore della Lega ha detto facciamolo, dopo che in Colorado da qualche giorno è possibile comprare la marijuana per scopi ricreativi, dopo che l'Uruguay, ne abbiamo già parlato, ha lanciato la marijuana libera. E allora ecco che in Italia ci sono le proposte di legge, dibattiti, ne parleremo con alcuni politici, con alcuni esperti del settore. Questa alle 8:15, ora andiamo appunto a scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola in questo giovedì 9 gennaio. Intanto i titoli, le scelte dei quotidiani sono su due grandi notizie: la TASI, e quindi la tassa sulla casa, e poi le difficoltà all'interno del governo per i vari pasticci che si susseguono giorno dopo giorno. Allora, casa, aliquote TASI più alte ma con maggiori detrazioni, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Vedremo poi con Mauro Meazza, c'è uno speciale proprio sugli immobili e il fisco. Anche per il Corriere della Sera, prima casa, la tassa può salire, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Messaggero, TASI più alta sulle seconde case. La Stampa, via libera all'aumento della TASI. Il Secolo XIX, TASI più alta, ma è scontro. Avvenire, aliquote TASI più alte per aiutare le famiglie. E poi appunto la questione del governo, c'è una Repubblica molto aggressiva nel titolo di prima pagina, cioè questo: Renzi scrive l'agenda del governo, troppe figuracce. Ma Letta risponde: non mi faccio commissariare. Libero invece torna a casa Letta, governo di incapaci, mentre il giornale se la prende da con Saccomanni, il ministro che viene ridefinito così in prima pagina in titolone, Sacco Danni. L'Unità, governo ad alta tensione, mentre il Fatto Quotidiano, 5 ministri da rottamare. Ci sono le foto e sono, secondo il Fatto, Saccomanni, Carrozza, De Girolamo, Cancellieri e Lupi. E mentre il Manifesto, i polli di Renzi, se la prende con il sindaco di Firenze, perché scrive il Manifesto: mentre predica bene a Roma, sostenendo la protesta degli insegnanti, razzola male a Firenze perché mette in mora 4.000 dipendenti comunali, dovranno restituire fino a 18.000 euro vecchi aumenti salariali. Questa è l'accusa del Manifesto in prima pagina nei confronti del segretario del PD e sindaco di Firenze. Intanto voglio partire però da un'intervista che farà certamente discutere, perché il tema è dibattuto, quello delle unioni civili, ma questa volta c'è un viceministro al welfare, Maria Cecilia Guerra, intervistata dal Corriere della Sera, siccome lei ha la delicata delega per le pari opportunità, intervistata da Alessandra Arachi sul Corriere a pagina 13, si spinge oltre. Perché non solo dice è assolutamente giusto legiferare per il matrimonio delle coppie dello stesso sesso, ma dice il viceministro Guerra anche sì alle adozioni di bambini per le coppie omosessuali. Sugli omosessuali basta rinvii, a loro i diritti di tutte le coppie. E così Maria Cecilia Guerra, che dice ci vuole un dibattito trasversale, sereno, esprimo certo un parere personale, ma non ci sono motivi per trattare in modo diverso una coppia omosessuale rispetto a una coppia eterosessuale. Siamo sempre davanti a due persone che hanno un rapporto d'amore e sono disponibili a una relazione di reciprocità fatta di diritti e doveri, responsabilità rispetto alla società. Del resto, in molti paesi d'Europa i due tipi di coppie sono già equiparate, come in Gran Bretagna, Francia, Olanda, Svezia, Belgio, Danimarca, poi la Germania e il Portogallo. Lì però ci sono dei distinguo che riguardano le adozioni per le coppie omosessuali. E qui arriviamo al punto cruciale dell'intervista. Ecco, lei pensa che sarebbe giusto concedere anche la possibilità di adozione alle coppie omosessuali? Personalmente penso di sì, risponde il viceministro Guerra, perché sono a favore di una piena equiparazione, ma intanto penso si debba convenire sul fatto che se all'interno della coppia omosessuale c'è un genitore naturale single, credo che il partner debba avere la possibilità di adottare quel figlio, e non vedo che tipo di obiezioni potrebbero esserci a una cosa simile. E poi, di fronte alla domanda, si rende conto che le prime obiezioni potrebbero arrivare proprio all'interno del suo partito, il Partito Democratico. Non è un problema di partito, risponde Maria Cecilia Guerra. Un tema di questo genere, l'ho già detto, non deve essere appannaggio di un partito o di un altro. È un tema talmente sensibile che deve essere affidato alla coscienza di ognuno. E dunque, insomma, lancia questo tema. È il vice ministro del welfare, è colei che ha la delega per le pari opportunità. E come scrive il Corriere, vista anche questa intervista, non ha intenzione di lasciarla sulla carta, perché lancia questo dibattito certamente molto molto sensibile, su un tema molto sensibile all'interno della coalizione di governo, non solo all'interno del paese. Mi hanno incuriosito due vicende, una è di quelle che quando io leggo anticipo sempre dicendo mi raccomando mani ben salde sul volante se state guidando, oppure caffè bollenti da appoggiare per un attimo insieme ai cappucci, le brioche. Perché quando parliamo di spese pazze, e sono su Libero, a pagina 4, beh, di recente avevamo parlato, se vi ricordate, avevamo raccontato di spese a Palazzo Chigi, tra queste anche un 25.000 euro per il restauro della poltrona su cui siede il Presidente del Consiglio. La poltrona, quando si dice proprio la poltrona, 25.000 euro. Al che pare ci sia stato, secondo Libero, un seguito a questa vicenda. Saputo di questa cosa, Enrico Letta, così almeno giura Libero, ha silurato il dirigente che era capo delle politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, Alberto Stancanelli. Spese pazze a Palazzo Chigi, salta l'uomo degli appalti, racconta Franco Bechis, che già aveva tirato fuori la storia dei 24.000 euro per una sedia. Quasi 25.000 per la verità. Franco Bechis racconta: la poltrona l'aveva trovata bella restaurata al ritorno dalle brevi ferie, così come tutte le seggiole dell'ufficio. Ah, ecco, poltrona e seggiole. Aveva notato che le tende sembravano nuove. Ah, beh, anche le tende, allora si capisce, poltrona, seggiole e tende. Ma poi ha preso in mano Libero e Enrico Letta non sapeva che a Palazzo Chigi fossero stati spesi quasi 25.000 euro per dare una spolverata alla poltrona all'ufficio del Presidente del Consiglio. Nei giorni successivi il Premier ha preso nota di ogni puntata sulle spese pazze alla Presidenza del Consiglio, ha chiesto ai suoi collaboratori «Ma è vero?» e ricevuta risposta affermativa ha ordinato di prendere dei provvedimenti. Il più clamoroso è arrivato in settimana. A Palazzo Chigi è saltato il capo del Dipartimento per la Politica di Gestione, Promozione e Sviluppo, Alberto Stancanelli, che per 3 anni aveva ricoperto il ruolo di coordinatore dell'Ufficio per il Controllo Interno, la Trasparenza e l'Integrità. Racconta ancora Libero in quest'articolo: a capo ora del Dipartimento è arrivata Paola D'Avena, un avvocato che viene ritenuto una sorta di cagnaccio, tra virgolette, in questo caso come un complimento, per questo temuta dai dipendenti, perché insomma è lì a controllare che non vengano fatti sprechi. Vabbè, spese pazze a Palazzo Chigi, salta l'uomo degli appalti. Questo è racconta su Libero, che peraltro però, continuando nell'articolo, dice: comunque non è stato silurato il dirigente Stancanelli, è stato trattato coi guanti e ora ha trovato posto come capo ufficio stampa della segreteria del Consiglio dei Ministri. Mi ha incuriosito anche, prima di fermarci un attimo per la pubblicità, questa storia che racconta il secolo XIX in prima pagina e che proviene da Savona. È la decisione di un preside di un liceo, stanco, stufo del fatto che i suoi studenti fumassero nei bagni, un gran classico, no, delle scuole dove vanno i nostri ragazzi. Allora, sapete che ha fatto questo preside di Savona? Durante le vacanze di Natale, i ragazzi e le ragazze sono tornate, hanno trovato i bagni senza porte, porte aperte. Senza porte, per fare i blitz antifumo nei bagni, ovviamente con tutto quello che ne consegue in termini di privacy, cioè questi devono andare al cesso senza le porte. E polemiche a non finire. Silvia Campese, prima pagina del secolo XIX, via le porte dei bagni, il blitz antifumo di un preside a Savona. C'era una volta la privacy all'ITIS di Savona, perché da quando ai bagni hanno tolto le porte, gli studenti non sanno nemmeno più cosa sia un minimo di riservatezza. Il motivo è contrastare il fumo nell'istituto scolastico. Questa è la soluzione presa dal preside dell'istituto tecnico Ferrari Spancaldo, che ha adottato come strategia per fermare il fenomeno della sigaretta a scuola. Da quest'anno, severamente vietata anche nei locali a cieli aperti degli istituti, figurarsi all'interno degli istituti stessi, e dunque la drastica decisione è via le porte dai singoli servizi, rendendo visibile il momento privato, pur di arginare un fenomeno che, a detta degli stessi ragazzi, aveva superato i limiti, con cappe di fumo nei servizi igienici dei vari piani. Eccolo qui, il preside savonese si chiama Alessandro Gozzi, in stile Full Metal Jacket, così scrive il secolo XIX in prima pagina. Una decisione che non è piaciuta agli studenti, soprattutto perché pare ci sia una discriminazione, nel senso che gli studenti maschi si lamentano perché alle studentesse, per garantire un minimo di privacy, perché me li immaginate, se no io me li immaginavo tutti gli studenti di fuori dai bagni a guardare, oh, andiamo a vedere che Laura va in bagno, beh, ovvio. E allora alle studentesse è stata data la possibilità di andare nei servizi dei professori, dove c'è tanto di chiave e quindi possono garantire la privacy a se stesse, le studentesse, con grandissima delusione ovviamente dei maschietti. Vabbè, succede anche questo, eh. la trovate in prima pagina del secolo XIX. Questa è la decisione del preside che ha tolto le porte ai bagni in un istituto di Savona. Decisione shock, la definisce così nel titolo il secolo XIX. Beh, come decisione non è male, no? Come impatto, sicuramente l'impatto mediatico l'ha avuto. Ci fermiamo per un paio di minuti, rientriamo subito dopo la pubblicità con le notizie sulle tasse. Poi Matteo Renzi ha presentato il Jobs Act, che poi è una riforma del lavoro, che però se si chiama così viene subito impallinata. Quindi Jobs Act, per cercare di rilanciare il tema occupazione. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui alle 7:32 minuti. Allora, le notizie principali che trovate sui giornali certamente sono la questione della tassa, la tassa sulla casa, finalmente ieri, anche se non c'è una chiarezza definitiva, però è stato messo un punto, è stata stabilita la quota, l'accordo di maggioranza, nonostante Scelta Civica abbia votato contro, o meglio, sì, non ha votato. Però è stata stabilita l'entità della TASI. Ora, poi sul Sole 24 Ore vedremo con Mauro Meazza, ci sono tutti i dettagli, non è che è tutto ancora chiarissimo, però alcuni punti sono stati messi nero su bianco. Per esempio, l'aumento dallo 0,1 allo 0,8 per mille delle aliquote a TASI e la flessibilità ai sindaci su come spalmare la maggiorazione tra abitazione principale e altri immobili. L'aumento TASI tra 0,1 e 0,8 per mille, questo è il titolo che trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, Marco Mobili spiega i dettagli. Dunque c'è stata questa decisione di aumentare dallo 0,1 fino a uno 0,8 per mille delle aliquote. Questo vuol dire che nel 2014 si potrebbe avere un'aliquota massima della TASI del 3,3 per mille e un tetto del 10,6 per mille di IMU su tutti gli altri immobili. Però attenzione, il tutto è condito da un vincolo ben preciso, cioè i sindaci che ricorreranno alla maggiorazione della TASI dallo 0,1 fino a un massimo di 0,8 di maggiorazione dovranno destinare le maggiori risorse incassate così esclusivamente allo scopo di deliberare a favore di famiglie e ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità. Cioè, come dire, sì, cari sindaci, potete aumentare la TASI, potete guadagnare quindi di più, ma solo se queste risorse le utilizzate per detrazioni ai ceti più bisognosi. Dunque, far pagare un po' di più alcuni per far pagare un po' meno gli altri. Poi vedremo, perché vedremo poi come verrà applicata comune per comune. Vedremo poi come reagiranno i comuni, come reagiranno i cittadini. Vedremo anche con Mauro Meazza ulteriori dettagli. Intanto sull'altro tema legato alla casa, come scrive Saverio Fossati a pagina 2, cioè la mini IMU, è quella, non c'è niente da fare, bisogna pagare entro il 24 gennaio. Saverio Fossati racconta: non si tornerà indietro. Il ministro dell'economia Saccomanni ha messo la parola fine alle speranze di chi sperava in una proroga per la mini IMU, addirittura una sua cancellazione. Ieri il ministro ha dichiarato che la mini IMU è una necessità dovuta a motivi equitativi, data la natura autonoma dei comuni nella fissazione delle aliquote. Dunque la mini IMU va pagata, ci sono tutti i calcoli sul Sole 24 Ore. Tra l'altro sul Sole c'è anche l'anticipazione, come su tutti i giornali, del cosiddetto Jobs Act. Ecco, non chiedetemi perché sia stato definito così invece che riforma del lavoro, cioè è stato definito così tecnicamente perché richiama quello che Obama fece, no? Nel 2011, l'American Jobs Act, con anche previste riforme sul lavoro. Forse è stato chiamato così anche per scaramanzia, perché quando si parla di riforma del lavoro poi non si fa nulla, e quindi chiamarlo Jobs Act magari passa. Comunque sta di fatto che Renzi ieri nella sua nel suo giornale online ha anticipato quelle che tra l'altro dovrebbe oggi poi affrontare con Enrico Letta, o oggi o domani nell'incontro previsto, tutte le novità di questa riforma del lavoro. Contratto unico e assegno universale, così titola pagina 7, Il Sole 24 Ore, Emilia Patta e Claudio Tucci. Eccolo qui, il piano industriale per ciascuno di 7 settori chiave per il rilancio della nostra economia, dalla manifattura all'edilizia, al Made in Italy, con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro. E poi le regole, dove si dovrà partire dalla semplificazione normativa, la proposta di presentare entro 8 mesi un codice del lavoro più snello e comprensibile all'estero, sia anche a un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutela crescente, per arginare così gli oltre 40 rapporti di lavoro oggi esistenti, assegno universale per chi perde il lavoro, anche per chi oggi non ne avrebbe diritto, agenzia unica federale che coordini e indirizzi i centri per l'impiego, la formazione e l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Queste alcune delle proposte contenute anticipate nel Jobs Act. C'è per esempio anche sul fronte dell'energia un primo segnale: ridurre del 10% dei costi per le aziende dell'energia per consentire una riduzione del 10% dell'IRAP. E poi un'altra proposta molto concreta è questa, e che a me piace molto: si propone di eliminare dalla figura la figura del dirigente a tempo indeterminato nel settore pubblico, per dire stop allo strapotere delle burocrazie ministeriali. Quindi basta ai burosauri di Stato. Queste sono alcune delle proposte, ovviamente poi ce ne sono altre. Anche la stampa mette a pagina 6 il Job Act di Renzi: entro 8 mesi meno tasse e un nuovo codice del lavoro. Sono soprattutto promesse, cioè si dibatte e bisogna fare queste cose, questo almeno in quello che propone Matteo Renzi. Ecco, dico a favore della burocrazia, della sburocratizzazione e contro i burosauri di Stato, perché pare che ci sia stato l'ennesimo inghippo burocratico dietro il pasticcio che si è verificato ieri sulla vicenda degli insegnanti. Io ve l'avevo detto ieri nella segna stampa, vedrete che troveranno una soluzione, perché è incredibile richiedere 150 euro promessi di aumento in busta paga agli insegnanti. E infatti nel giro di un'ora in mattinata poi la situazione si è risolta. Certo, si è risolta, ma rimane il senso di un gran pasticcio. Tanto che sui giornali è raccontato il dibattito, anche lo scontro tra i vari ministri, il ministro Sacco Manni, che addirittura il giornale mette così in prima pagina Sacco Danni, questo è il titolo, e il ministro Carrozza, che viene intervistata dall'Unità e dice a Natalia Lombardo: non sapevo, non è vero che fossi informata dall'inizio, hanno fatto tutto tra Natale e Capodanno. Cioè l'idea, insomma, che adesso durante le vacanze il ministro va via magari 3 giorni a riposarsi e tract. Cosa vuol dire hanno fatto tutto chi? Io non sono abituata a scaricare la responsabilità su nessuno, dice Maria Chiara Carrozza. Non voglio che questa polemica continui, non è nell'interesse del governo né della scuola, per cui non replico ai comunicati del Ministero dell'Economia, che si definisce solo un mero esecutore. È evidente che non va la distribuzione tra funzione pubblica, istruzione e economia della responsabilità sugli insegnanti e la loro retribuzione. La cinghia di trasmissione non funziona, bisogna rivederla. Anche il personale ATA, tra l'altro, dice Maria Chiara Carrozza, perché sta scoppiando un nuovo caso sul personale non docente, anche quel personale può stare tranquillo. Proprio in queste ore stiamo lavorando sia sui non docenti che sugli insegnanti. Non sono d'accordo con le dimissioni del ministro Saccomanni, non le ho mai chieste. Ma certo, questo sull'Unità, Maria Chiara Carrozza, fa abbastanza specie sentire Saccomanni definirsi solo un mero esecutore. Tanto che, racconta Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera, la ministra accusa i burocrati l'allarme inascoltato dei sindacati. Dunque, si chiede il Corriere, colpa del ministro Saccomanni o della ministra dell'istruzione Carrozza, del potente apparato dei ministeri che opera nell'ombra? Di sicuro il più lesto a capire tutto e capire che c'era una battaglia politica da vincere è stato il segretario del PD, Renzi. Problema di comunicazione, ha detto Saccomanni. Poi, con qualche veleno, ha aggiunto: il Ministero dell'Economia è mero esecutore dei pagamenti delle retribuzioni del personale scolastico per conto del Ministero dell'Istruzione. Eseguiamo istruzioni che non ci sono pervenute. E beh, insomma, in questo modo, come dire, ha dato colpa al Ministero dell'Istruzione. Dall'istruzione non arrivano però istruzioni. E scusate il bisticcio, ma anche il gioco di parole nell'articolo di Andrea Garibaldi. La ministra Carrozza ieri ha rinviato la sua partenza per Washington, ha parlato di impicci burocratico-amministrativi, ha detto che questi avvengono a volte senza che i ministri e il governo ne sappiano niente. Insomma, il patatrac è stato risolto, ma la figura rimane, tanto che racconta Repubblica in un retroscena molto molto duro. Il titolo di prima pagina di Repubblica è: Renzi detta l'agenda di governo. Pare che Renzi e i suoi, e questo si legge in un articolo di Goffredo De Marchis a pagina 3, abbia detto: basta con queste figuracce, ormai siamo i badanti del governo. E beh, l'immagine del badante, scrive Repubblica, è forte, umiliante certamente. Renzi l'affida ai suoi interlocutori fidati, ma il senso non cambia di molto leggendo anche la lettera settimanale pubblicata sul sito in cui annuncia il Jobs Act. A me va bene tutto, scrive Renzi, ma le figuracce gratis anche no. Stamattina il governo ci ha messo una pezza, era già accaduto con le slot machine, con gli affitti d'oro, le polemiche dell'ANCI. Dobbiamo trovare un modo diverso di lavorare insieme. E anche il Foglio in prima pagina fa un articolo molto molto critico nei confronti di Sacco Manni. Il titolo è: la grama carriera politica dei Banca Italia Boys, da geni a esecutori. Mancava solo il "non siamo su scherzi a parte" di Matteo Renzi per mettere il sigillo su una parabola, scrive il Foglio. Quella degli ex della Banca d'Italia entrati al governo e nella politica, tra balbettamenti sulla TASI, sulla ripresa economica, infine i 150 euro al mese da togliere agli insegnanti, sconfessato dal segretario del PD e dal ministro dell'istruzione Carrozza. Finché lo stesso Sacco Manni si è autodefinito un mero esecutore, non proprio il massimo per il responsabile dell'economia. Ora Fabrizio Sacco Manni rischia non solo la poltrona con i rumors che lo vorrebbero in uscita dopo il giudizio definitivo dell'Unione Europea sulla legge di stabilità, rischia di più. Vede leso lo status di uomo della più stimata alta istituzione del paese. Sacco Manni si è molto seccato per quel "siamo su scherzi a parte" di Renzi. In fondo brucia più degli attacchi di Brunetta, delle battute d'antan di Giulio Tremonti, perché qui c'è di mezzo qualcosa di profondo. Scherzi a parte, lo capiscono trasversalmente tutti, e quindi mostra il re nella sua nudità, ma anche rischia di esporre la casa madre, la ditta, insomma la Banca d'Italia, della quale, pur essendo ormai fuori dai giochi, Sacco Magni è comunque il testimonial. Beh, posizione certamente molto traballante, diciamo così. E con questo voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, questo è il contesto di cui stiamo parlando. Sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Insomma, io ho fatto un accenno alla TASI, ho spiegato l'articolo, ma l'approfondimento forse va detta qualche parola in più, perché voi fate tutti dei calcoli città per città. Sì, sì. Vorrei dire che sono un mero informatore, però non ho responsabilità di quello che... Certo, siamo due meri informatori noi, chiaramente. Siamo meri trasmettitori. Allora, partiamo dalle certezze. Il 24 gennaio si paga la mini IMU, sì, cioè quella quota residuo della prima casa nei comuni dove l'aliquota è aumentata dallo 0,4 e può essere arrivata fino allo 0,6 per mille. Quindi c'è tutto un calcolo da fare, lo spieghiamo a pagina 2. È chiaro. Tra pagina 3, 4 e 5 spieghiamo come funzionerà invece la TASI, che è un pezzo della IUC, cioè l'imposta unica comunale. Da meri informatori siamo, non dateci la colpa. Poi dicesse, questo dice cose che non si capiscono, può essere sicuramente, però insomma, sono un mero trasmettitore. Il senso è questo, Alessandro. Allora, questa TASI, i comuni la potranno aumentare, però questo aumento dovrà servire a finanziare degli sconti che poi i comuni decideranno dove mettere, sostanzialmente famiglie numerose, basso reddito, certo, eccetera eccetera. Cioè, al principio alcuni paghino, come dicevo, perché altri paghino meno, insomma dovrebbe essere questo il senso. Questo dovrebbe essere il principio. Quanto si pagherà? Questo lo spiega bene nel dettaglio Gianni Trovati, e il senso è più o meno questo: se uno sta in una casa dove la rendita catastale è già alta, probabilmente potrebbe tradursi il tutto in una riduzione del prelievo. Se sta in una casa magari più vecchia, quindi la rendita catastale non è aggiornata e più bassa, allora può essere invece che ci sia un aggravio del prelievo. Ma su tutto c'è l'incognita delle decisioni del comune. Non so se è chiaro. Informatore sono stato chiaro. Non lo sanno neanche loro. Noi partiamo dal principio che, siccome non lo sanno neanche bene loro, anche chi informa è un po' in difficoltà e si può rifugiare così. Ecco. Ci sono invece delle certezze a questo mondo. Da oggi, se vai a rinnovare la patente, te la fanno nuova. lo dispone il codice, ne dà notizia Maurizio Caprino nelle pagine di norme, quindi ti danno la patente nuova. Okay. Hai presente quei lenzuoli un po' sì, come con dire, i bollini del 71, tu li avrai del 71 quelli. Sì. Sì, ti ringrazio molto, tu sei giovanissimo, quindi avrai già una patente, non so, con chip, microchip. No, ce l'ho ancora quella là, cartacea. Io che sono insomma di un'altra generazione, avevo, perché ora invece dispongo di una bellissima patente nuova, ma da oggi è per tutti così, cioè si va a rinnovare e ti danno la patente nuova. Tutti i dettagli non in cronaca come si usa dire, ma in norme e tributi. Poi sempre in norme e tributi per Radio Fisco, il leasing, sono cambiate le regole del trattamento fiscale del leasing in senso più favorevole, quindi è tutto da gustare per i nostri amici che si occupano della materia fiscale, naturalmente su norme e tributi. Allora, io ti ringrazio Mauro, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi continuiamo con pasticci di governo, sì o no, e altre notizie sui giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, nel profluvio di articoli certamente favorevoli a Matteo Renzi, uno che certamente gode di ottima stampa, c'è una prima pagina del manifesto invece critica i polli di Renzi, questo è il titolo di prima pagina del manifesto, e la critica è questa: mentre il leader del PD predica bene con la difesa degli insegnanti, costringendo il governo a far marcia indietro sulla restituzione degli scatti di anzianità, invece a Firenze razzola male, mette in mora 4.000 dipendenti comunali. Riccardo Chiari spiega i dettagli a pagina 3 del manifesto, e a casa il sindaco taglia. Racconta, c'è anche un responsabile sindacale del comune di Firenze che dice, Mauro Comi dell'RSU del comune, 4.500 addetti, il sindaco ha inviato una lettera di messa in mora chiedendo ai suoi dipendenti somme variabili da alcune centinaia fino a 18.000 euro. E dice e dichiara questo rappresentante sindacale: sembra Renzi uno che si fa vedere da tutti mentre pulisce il giardino pubblico, mentre in casa sua butta il sudicio sotto il tappeto. In ogni caso, insomma, pasticci, c'è stato anche quello del decreto Salva Roma, altro pasticcio di governo al Senato, prima bocciato, poi recuperato il decreto Salva Roma, tanto che il Messaggero lo mette a pagina 3. Comprensibilmente, nuovo incidente sul Salva Roma, più difficili altri aiuti alla capitale. Il disegno di legge, anzi il decreto legge, inciampa in commissione sui dubbi di costituzionalità, poi l'aula mette una pezza e viene recuperato. Insomma, si va avanti un po' così, si va avanti a tentoni, diciamo, per usare un eufemismo. Mi ha molto colpito la vicenda di cronaca che molti hanno seguito, la vicenda di Caselle torinese, dove è stato trovato ieri il killer di questa famiglia, dopo che per giorni, inutile negare, tutti sospettavano fosse stato il figlio. Invece si è scoperto che è stato Giorgio Palmieri, una persona che ha vissuto, come racconta il Corriere, per anni nella zona d'ombra che confina con il lecito e con l'illecito, e leggere il verbale che trovate tutti i giornali della confessione di questo killer è un qualcosa che impressionante, mette davvero i brividi. Sentite cosa ha detto questa persona. Intanto il titolo su tutti i giornali è questo: ho bevuto il caffè con loro, poi li ho uccisi. Alla nonnina, dopo averla uccisa, ho dato un bacio. E io sono rimasto sconvolto. Sono arrivato lì con l'idea di portargli via i soldi. Sono andato in bagno e sono rimasto a lungo. E quando il padrone di casa mi dice: chiesi del bagno, ci restai così tanto. Il padrone di casa mi domandò: ma non lo usi il bagno? A sentire queste parole non so cosa mi prese. Leggo dal verbale di confessione. Con un tagliacarte che avevo trovato vicino all'abitazione prima di entrare e che avevo affilato passandolo su una pietra, dissi ad Allione, cioè il proprietario di casa, di darmi i soldi. Preso dall'ira sferrai i colpi su di lui, lo colpì col tagliacarte, una prima volta la schiena sotto la scapola, poi il torace. Lui mi guardava. Ricordo che arrivò poi la signora che stava per gridare, l'ho presa per lo scialle e gli ho detto: dammi tutto quello che hai in casa. Lei mi rispose: non aveva nulla, la colpì alla schiena e poi dritta al torace. Poi a un certo punto diventa pietosa la confessione dell'omicidio della nonnina, la signora anziana. Dopo aver ucciso i coniugi cercai di allontanarmi. senza farmi sentire dalla nonnina che era al piano terra, ma la nonnina aprì la porta e mi disse: tu che ci fai qui? Io mi avvicinai, lei mi rispose: adesso ti aggiusto io. A quel punto diedi anche a lei delle coltellate davanti e sulla schiena. Non volevo farlo, mi si stava spezzando il cuore. Dopo averla colpita, l'ho coperta con un piumone del letto, poi le ho dato un bacio perché ero dispiaciuto. Ma voi vi rendete conto? Alla fine di tutto questo ha rubato 100 euro. E questo è il verbale davvero che mette i brividi, e c'è anche la, in qualche modo, il dolore del figlio, perché dice: ora finalmente mi rendo conto in questo momento profondamente cosa vuol dire essere rimasto orfano. E soprattutto il dolore anche perché dice: da sospettato tutti mi davano contro. Avevo tutti contro, è diventato anche investigatore, perché poi aveva trovato una tazzina del caffè, che è la tazzina dove aveva bevuto l'assassino poco prima di compiere questo scempio. Aveva trovato dei particolari, allora si diceva: ecco, vedete, uno che c'entra. Poi c'erano dei buchi, sarà andato a sciare, non è vero. E invece, da sospettato numero uno messo in croce dai giornali, in realtà davvero non c'entrava nulla ed è vittima due volte, oltre che essere vittima lui anche di questa tragedia, è stato vittima anche di una campagna di stampa, certo non molto innocentista nei primi tre giorni nei suoi confronti. Va bene, ho solo tempo per due segnalazioni. La prima è: la stampa continua questa inchiesta sul metodo Stamina e il suo guru Davide Vannoni. Il nuovo articolo di Nicolò Zancan è l'intervista alla vedova, la vedova di Umberto Mattavelli, che ha provato le infusioni di Vannoni e che dice: altro che donazioni, Vannoni da me pretese 50.000 euro in nero. Quando si è ammalato mio marito ero disperata, ero disposta a tutto, e Vannoni mi disse: non si preoccupi, suo marito lo rimetto in piedi. Abbiamo dato 50.000 euro alla segretaria di Vannoni, metteva i soldi dentro una busta, nessuna ricevuta. Certo che mi sembrava strano, ma io avrei venduto anche la casa per cercare di curare il mio Roby, mio marito. Ho conosciuto altri due sposini che arrivavano dal sud, lui carabiniere malato, hanno finito tutti i soldi per Stamina al punto che hanno dovuto rinunciare. Non è vero che sono cure compassionevoli. Insomma, un duro atto d'accusa, continua l'inchiesta della stampa, e questo è un atto d'accusa certamente molto duro nei confronti del fondatore del metodo Stamina, Davide Vannoni. Lo trovate sulla stampa. Vabbè, siamo al metodo, al premio La Carta Costa, l'articolo più inutile. Qua bisogna avere la polemica più inutile scovata sui giornali. Prima avevamo anche il vice direttore di Libero. Ma amici di Libero, ma cosa vi siete inventati? A parte che nessuno ha visto, se non in anteprima, il film di Virzì, che ieri erroneamente ho detto è uscito da qualche giorno, in realtà esce oggi. Ma poi sta polemica sulla Brianza, operosa, non operosa. Libero vince il premio con Michela Ravalico, ma due pagine la polemica sul capitale umano. Il nord non è quello descritto dal film. Virzì dice: ma non ho descritto la Brianza, però forse sì. Ma chi se ne frega di questa polemica? Chi se ne frega? Qua bisogna dirlo proprio: la carta costa, e costa parecchio, amici di Libero e amici e colleghi giornalisti. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Eccoci qui a parlare di legalizzazione o liberalizzazione, meglio, delle droghe. Visto che il dibattito è stato rilanciato da qualche giorno, un assessore leghista in Lombardia, lo sapete ormai, ha lanciato il sasso. È spuntato anche in Senato subito un disegno di legge per depenalizzare l'uso delle droghe cosiddette leggere. Si guarda soprattutto agli stati stranieri, si guarda l'Uruguay, ne abbiamo già parlato qui a questi microfoni. L'Uruguay ha deciso di rendere legale l'erba a scopi ricreativi, così hanno fatto alcuni stati americani come Washington e lo stato del Colorado, così sembrano fare altri stati. Quindi diciamo che il dibattito, d'altronde, tra proibizionisti e antiproibizionisti è vecchio come il mondo, se ne parla anche in Italia. Allora, piccole e due premesse personali: io sono tendenzialmente a favore di una sperimentazione, proviamo, perché no, vediamo, non so, proviamo 10 anni, vediamo se serve a sconfiggere davvero il narcotraffico. Però la precisazione è questa: come ha scritto ieri, secondo me opportunamente, Filippo Facci su Libero, non è che chi è a favore della liberalizzazione perché vuol farsi le canne, ecco, perché già subito le vedo le semplificazioni all'italiana. Magari uno può pensare che sia un dibattito culturale, sia un dibattito che serva dal punto di vista economico, dello stroncare il crimine, pur essendo contrario, come sono personalmente, all'uso delle droghe e non avendo alcuna attrazione per la droga. Seconda considerazione è questa: però queste mie certezze sono state un po' messe in crisi ieri quando ho visto delle foto. Ieri Elisabetta Fusconi, qui in redazione, mi ha fatto vedere le foto in Colorado di tutta questa gente in fila in attesa di prendere lo spinello. Ecco, di fronte a quella foto, per carità, è quello che si può evincere da una foto, ma sono impressioni, quella foto mi ha messo un po' di tristezza, anzi profonda tristezza, come le persone, una sembrava una serie di drogati proprio in attesa della loro dose, di un po' disperati, un po', ecco, mi ha messo un po' di squallore quella foto lì, però ripeto, è l'impressione data da una foto. Questi sono i miei pareri personali, ma li mettiamo da parte. Voglio sentire quello dei miei ospiti e anche degli ascoltatori. E vi ricordo il numero per intervenire: 800 24 00 24. Saluto l'onorevole Alessandro Gozzi del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto. Saluto anche la deputata Paola Binetti. Buongiorno, Gruppo per l'Italia. Buongiorno. Onorevole Binetti. Allora, io inizierei da Gozzi, se non altro perché Gozzi, lei è favorevole, ma lei fa parte di quel partito, il PD, nel quale c'è anche uno, Manconi, che ha presentato un disegno di legge, anche lei credo con Giachetti, lei si occupa di questi temi da anni, si batte per una liberalizzazione, comunque l'antiproibizionismo, e però insomma Renzi ha sentito, no, che già ha detto no. Comunque, insomma, al di là della diatriba politica, che ne pensa? Perché sperimentare? Guardi, innanzitutto vorrei sottolineare una cosa. Che legalizzare, come io propongo con Giachetti alla Camera e come Manconi propone al Senato, direi che è l'opposto di liberalizzare. Oggi già le droghe leggere sono liberalizzate, è una liberalizzazione di fatto, è una liberalizzazione assolutamente non regolata, è una liberalizzazione che va a favore degli spacciatori e va a favore del crimine organizzato, è un business solo per le droghe leggere che viene stimato dai vari studi eseguiti in Italia di circa 60 miliardi all'anno. Legalizzare la cannabis, come noi proponiamo, vuol dire esattamente l'opposto, vuol dire fare norme per la produzione, per la diffusione, vuol dire avere tasse accise sul prodotto, proprio come accade per l'alcol, come accade per il tabacco, e vuol dire eliminare la criminalità organizzata collegata alla produzione e al commercio della cannabis, vuol dire disimpegnare magistratura e forze dell'ordine da un inutile caccia all'uomo per le droghe leggere, vuol dire destinare quelle risorse per la dissuasione, per il controllo, per la prevenzione, per l'educazione. Cioè, regolamentare un fenomeno in tutte le sue sfaccettature. Anche perché il proibizionismo, in maniera pragmatica, dobbiamo prendere atto che ha fallito miseramente in Italia, e dato che è il 14,6% secondo gli studi degli italiani tra i 15 e i 65 anni che fanno uso di droghe leggere, fanno uso di cannabis, è uno delle vette più alte in Europa e nel mondo, solo la Nuova Zelanda fa come noi, quindi dobbiamo prendere atto che il proibizionismo non è assolutamente la via. Poi è chiaro che bisogna fare anche altre cose, e l'approccio per cui con la Fini Giovanardi, di fatto disattendendo anche un referendum nel 93, perché nel 93 gli italiani avevano scelto di almeno depenalizzare l'uso della canapa indiana, della cannabis, sì. Il fatto che abbiamo una legge, la Fini Giovanardi, che per tantissimi aspetti non fa alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, non solo va contro la volontà degli italiani, non solo riempie inutilmente le nostre carceri, ma non ha dato effetti rispetto allo scopo che si prefiggeva, cioè lottare contro i traffici, lottare e fare diminuire ridurre, esatto. E su questo però c'è un grande dibattito. Oggi per esempio Don Chino Pezzoli su Libero scrive: attenzione, perché poi quando si parla di questo c'è una grande ignoranza proprio su anche i principi attivi della cannabis, che negli anni sono stati molto potenziati, e quindi lo spinello, per dirla brutalmente, di 20 anni fa non ha più gli stessi effetti anche sulla psiche e sul fisico dello spinello di oggi, che è molto più potente. In ogni caso, onorevole Binetti, perché non provare? Ecco, dice l'onorevole Gozzi, il proibizionismo ha fallito nel senso che le politiche proibizioniste non sono servite, tutto ciò che viene proibito per legge poi si sa alimenta un crimine parallelo, un crimine nascosto, e alimenta anche, se vuole, una curiosità, un commercio per cercare di trovare ciò che viene proibito per legge. Perché non sperimentare? Per due ragioni sostanzialmente. Una, tra l'altro, devo dire col solito equilibrio, l'ha detta lei all'inizio, quando ha descritto con due battute la sigla di coloro che in Colorado vanno a prendere la loro dose di spinello, lei più di qualunque altra argomentazione ha fornito già un'immagine. È un'immagine, è un'immagine, diciamo. Sì, è un'immagine molto efficace. Perché? Perché l'immagine che da una parte è vero, che vede andare verso il consumo delle droghe coloro che le sperimentano inizialmente come una trasgressione, ma come dire un gesto quasi adolescenziale, no? Il famoso spinello dell'adolescente. Ma in realtà quello che si crea poi, questa è la dimensione diciamo che rende tutti noi legislatori necessariamente molto prudenti in base al principio proprio di precauzione, poi lei in realtà sta dicendo alle persone che tutto sommato non è male, che lo si può prendere. Quindi se il collega, prima che saluto molto affettuosamente, sosteneva la differenza tra liberalizzazione e legalizzazione e si poneva dalla parte di una legalizzazione quindi controllata eccetera, ovviamente la mia posizione è una posizione direi più limitativa, cioè io mi pongo dalla parte di una depenalizzazione di chi lo usa come dire veramente come dose personale. Personalmente preponderei anche per la dose personale occasionale, perché nel momento in cui la dose personale diventa una necessità, noi abbiamo creato quella forma mentis della dipendenza, che lei sa meglio di me, sì, che oggi è una dipendenza multitasking, cioè chi stabilisce una dipendenza da de facto poi dipende da molte però, cose. Scusi, onorevole Binetti, quella stessa foto che mi ha fatto poi anche riflettere, nel senso che un ascoltatore mi scrive: ma lei, Milan, ha figli? Ma sì, che c'entri, io ho due figli, cioè, perché è la stessa posizione che ieri qui Salvini della Lega ha detto, cioè io non vorrei mai che mio figlio di 10 anni poi si trovasse ad andare dal tabaccaio semplicemente a comprare la canna. Ma guardi che fa, invece di andare al tabaccaio va a 50 metri oltre, al primo crocicchio magari di sera o magari al buio, incontrando persone anche un po' pericolose, e la trova allo stesso modo, solo in un modo un po' più pericoloso peraltro, ma la trova allo stesso modo. Non a caso la nostra, chiamiamola così, personale battaglia è nei confronti dello spacciatore, non è nei confronti del consumatore, nel senso che il consumatore molte volte può essere o alla ricerca di un'esperienza così, o anche per ingenuità, o comunque anche una persona, perché non dimentichiamo che ci sono anche persone che hanno una forte capacità di autocontrollo, di autodominio, per cui fumano una volta uno spinello, dopodiché la cosa resta lì, no? Però noi sappiamo la tendenza, la facilità con cui tutto questo crea dipendenza, tant'è vero che lei può fare un piccolo sondaggio e rendersi conto che coloro che sono più contrari alla legalizzazione sono proprio coloro che de facto si occupano dei centri di rieducazione, dei centri di riabilitazione, dei centri che veramente guardano alle persone, sì, tra l'altro, dopo, nella loro esperienza più drammatica. No, ma tra qualche minuto avremo anche Marco Caffiero, che è consigliere della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Ecco, e loro gli diranno esattamente. Sicuramente è contrario. Se si comincia con un piano inclinato che all'inizio sembra leggero, sembra proprio l'esperienza da cui poi si passa. Tutti noi siamo convinti di essere più forti di quello che non sembra e quindi di poterci fermare a un certo punto. Questo però è un non so, onorevole Gozzi, così poi tra poco la mettiamo 2-1, no? Cercherò di difenderla un po' di più io, diciamo, gli ascoltatori. Però questo, ecco, quello che dice l'onorevole Binetti, cioè si inizia lì in un piano inclinato e poi si arriva alle droghe pesanti, che poi bisogna capire, perché per qualcuno non c'è neanche più distinzione tra droghe leggere e pesanti. È un vecchio mantra che lei si sente di disconoscere, cuore oppure Guardi, accade in alcuni casi, e accade in alcuni casi con questo far west, con questa liberalizzazione di fatto in cui non c'è nessun controllo. Io sono convinto invece che attraverso una legalizzazione delle droghe leggere c'è anche la possibilità di, dal punto di vista della prevenzione, dal punto di vista della informazione e della formazione nei luoghi pubblici come nelle famiglie, c'è molto di più la possibilità di educare anche ai rischi, di educare anche all'utilizzo. E quindi proprio per evitare quel passaggio dalle droghe leggere alle droghe pesanti, che non è assolutamente automatico, ma che è possibile, e credo che la via della legalizzazione, anziché quella della tolleranza di fatto, sia la via responsabile alla luce del fallimento delle politiche che abbiamo seguito sinora. Quello che lei diceva è assolutamente vero. Cioè è evidente che adesso si trova in molti più punti la droga leggera, la cannabis, che rispetto a quanto accadesse se noi la legalizzassimo, indicassimo i centri in cui si può prendere, le quantità, se si controllasse tutto l'accesso ai centri, l'uso. E questo vuol dire legalizzare, vuol dire rendere più controllabile. Ma qui c'è un aspetto molto etico sul quale immagino che l'onorevole Binetti dirà: ma no, uno Stato come può legalizzare un qualcosa che fa male? Non mi dica così, onorevole Binetti, perché sa che c'è anche l'alcol, ci sono le sigarette. Lei forse sa che io ho una mia personale, diciamo tra virgolette, battaglia parlamentare aperta contro il gioco d'azzardo patologico che produce una malattia, che produce la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Allora, perché quello sì? Tranquillo, io sto facendo la mia battaglia, ovviamente. Ma lei vieterebbe quello? Allora vieterebbe l'alcol, vieterebbe le sigarette? Dipende dal grado di patologia che si induce e dalle conseguenze che questo ha. Perché lei proibisce una determinata velocità? Perché lei pone determinati limiti? Perché quando hai avuto l'incidente, le conseguenze che hai su di te e che tutto sommato puoi provocare anche ad altre persone sono conseguenze permanenti. Cioè, io fumo, immagini i ragazzi che vanno a una festa in cui davvero poi come oggetto di divertimento c'è l'offerta delle droghe, come succede a volte in alcuni ambienti, in alcuni locali, come quando purtroppo qualcuno beve e poi si mette al volante. Però lei, per quella che potrebbe essere sembrare una bravata di una serata, se quando esce ha un incidente o provoca un incidente, quelle conseguenze sono di tutta la vita. Ma certo, però per lo stesso principio, mi scusi, dobbiamo vietare l'alcol perché uno fa la bravata, beve, certo, e lo stesso. Di fatto lei sa meglio di me che ti possono fermare e misurare con le chilometri quanto hai bevuto, e si suggerisce la stessa cosa dovrebbe essere fatto in un caso di legalizzazione con la droga. Cioè, se uno fuma e si mette al volante in condizioni in cui non può guidare, deve essere stroncato, non so, deve essere questa la posizione, Gozzi, immagino, cioè il paragone dice assolutamente sì. Assolutamente questo, il paragone è esattamente questo, non è un invito all'utilizzo, è una possibilità per lo Stato di garantire meglio la convivenza dei cittadini attraverso dei controlli, attraverso ovviamente sarebbe un regime autorizzativo non solo della vendita, ma anche della coltivazione, ma anche del commercio, e anche delle sanzioni molto dure per chi, come oggi fa uso di alcol, così fa uso di un'eventuale droga leggera legalizzata e mette a repentaglio la sua vita e la vita di altri, magari mettendosi al volante. Certamente questo dovrebbe essere, a mio modo di vedere, il modello che dovremmo seguire. In ogni caso, tra un attimo, dopo la pubblicità, con l'onorevole Gozzi e l'onorevole Binetti, ci sarà anche Marco Cafiero, come detto consigliere della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Vorrei anche i vostri pareri, cari ascoltatori. 800 24 00 24, tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci qui, stiamo parlando di legalizzazione o liberalizzazione, sono due concetti diversi, ma insomma di questi temi legati alla droga. Con noi ci sono l'onorevole Sandro Gozzi, l'onorevole Paola Binetti. Eccoci, voglio salutare Marco Cafiero, consigliere della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Cafiero. Devo dire che ci sono tantissimi messaggi, non riesco a leggere, sono davvero dei più disparati, ma innumerevoli, che ci arrivano, come tanti tante anche gli ascoltatori. Vorrei sentire un paio di loro. Mattia da Pordenone. Mattia, buongiorno. Buongiorno Milan. Dica. Niente, io volevo intervenire, no, in merito al discorso liberalizzazione, sì. Perché vabbè, se mi dicono che liberalizzare vuol dire sconfiggere le narcomafie, mi può stare anche bene, però nel pratico cosa vuol dire? Che lo Stato dovrebbe assumere dei contadini, tra virgolette, della marijuana, giustamente messi in regola con contributi, stipendi, ferie, malattie, poi tutti i controlli sanitari che ci sono dietro, certo, le burocrazie, certo. Sarebbe italiane. Una produzione controllata, esatto, chiaro, di Stato, gestita, sì. Però chiaramente il prezzo di mercato finale di questo prodotto sarà concorrenziale contro i poveri, diciamo, contadini sfruttati in mezzo alla foresta o in mezzo alle dune marocchine. Cioè, lei cosa vuole arrivare a dire? Cioè... Ma nella sostanza cosa vuol dire liberalizzare? Cosa vuol dire? Cioè, chi produrrà la materia? Cioè, magari la prendiamo dall'estero, non lo so. Gozzi, avete pensato a questa idea? Cioè, chi dovrebbe produrre? Certamente, nella proposta che facciamo si è proprio ritenuto di introdurre un regime autorizzativo, come dicevo, non solo della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio. E questo proprio per superare alcune perplessità, no, che un regime di monopolio di Stato può destare. Cioè, quindi uno può fare il produttore. Come accade per il tabacco. Chiaro. Capito Mattia? Però questo dei costi non farà mai concorrenza, no? Con prezzo di un narcotraffico. Allora, se lo Stato, il passo successivo è questo, una sorta di borsino della marijuana, sì, deve calmierare il prezzo, e le mie tasse devono servire a calmierare un prezzo per buttarle così in fumo, allora a quel punto lì non è che mi vada tanto bene, perché poi il quindicenne non andrà nello spaccio ufficiale, sì, a comprare la marijuana, ma andrà sempre dallo spacciatore, dove sicuramente costerà meno. Va bene. Comunque, no, guardi, su questo posso intervenire? Dica Gozzi, sì. No, su questo è esattamente il contrario. Innanzitutto il contribuente non ci rimette nulla, anzi, semmai ci sono delle risorse che vanno allo Stato con le accise che ci sarebbero sul prodotto marijuana. Poi questo problema, che è un problema reale, si incontra già in Italia, perché io vorrei dire che in teoria in Italia la cannabis ad uso terapeutico in teoria sarebbe già possibile. Sì, però quella è un'altra però, questione, ecco, insomma, l'uso terapeutico. Però dato che non si può coltivare, dato che si obbliga i malati a prendere altre vie, ci sono dei costi elevatissimi, certo, che vengono affrontati. Quindi proprio anche da questo punto di vista, anche per quello che sarebbe già possibile, ma che le regioni, alcuni medici non rendono possibile, ci sono ad esempio per la sclerosi, è provato da vari studi scientifici che la cannabis indica ha degli effetti positivi, sì, anche da questo punto di vista noi renderemmo veramente possibile quello che in realtà è possibile solo in pochissime regioni italiane, cioè la possibilità per i malati che ne hanno bisogno con prescrizione medica di accedere a dei prezzi accessibili, mi sembra, ai però, vari grammi di cui hanno bisogno. Onorevole Gozzi, mi sembra che su questo dibattito ci sia più apertura da parte di tutti, mentre più però, è sul tema sulla scopo l'uso ricreativo che c'è più polemica. Ti dica che poi voglio andare a fare una cosa. A me mi sembra che l'operazione culturale che si sta facendo è un po' una mistificazione, però, perché si stanno stressando tutti gli elementi positivi a favore della droga, quindi liberalizzandola lo Stato guadagna perché può mettere delle tasse, liberalizzandola si riesce a trattare patologie che altrimenti non si potrebbero trattare, liberalizzandola si riduce il traffico illegale e la criminalità. Ecco, vede, quando trattando un argomento si nota nell'opinione pubblica e anche nella proposta all'opinione pubblica di quel prodotto un'enfasi eccessiva, tutta sui vantaggi, e si sottacciono tutte le difficoltà, sì, le conseguenze che sono, secondo lei, documentate. Si fa uno sbilanciamento. Allora guardi, forse Marco Cafiero, visto che l'abbiamo chiamato, sì, è consigliere della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, ci può aiutare a capire se, come diceva prima l'onorevole Binetti, sono devastanti effettivamente gli effetti dell'uso anche della cannabis. Per esempio, Cafiero, c'è distinzione secondo lei tra droghe leggere e droghe pesanti oggi? Ma noi come educatori abbiamo sempre rifiutato di fare un distinguo tra droga leggera e droga pesante. Per noi la droga è droga, poiché gli effetti effettivamente possano essere diversi, possono essere più o meno devastanti, questo a noi poco importa. Importa capire il messaggio di disvalore sociale che una proposta del genere può in qualche modo rappresentare. E quello che a noi preoccupa è il messaggio che ne ricevono i giovani. La liberalizzazione in qualche modo rende lecita un certo tipo, come lo diceva lei prima, di divertimento, perché fino adesso io ho sentito parlare di costi economici, di imprenditori, di coltivatori, ma non è questo il problema. Il problema in questo momento è il messaggio che la gioventù riceve. Cosa significa? Significa lecito, significa che ognuno si può coltivare in casa. Questo sì, questo lei pone l'accento su questo, però Cafiero, ripeto in maniera molto laica, dico, non è che allora lo stesso principio vale per fatti 50 birre e metti perché fa figo e poi ti metti al volante, cioè anche lì c'è un messaggio, oppure secondo il vino vale oppure... anche per questo, varrebbe anche per questo, posto che non c'è il divieto di assumere alcolici se non quello poi di porsi alla guida dopo averne assunto un quantitativo stabilito per legge, rimango ancora fermo sulla mia posizione che la droga ha effetti devastanti, che la droga fa male e che in qualche modo il dibattito che si è acceso e a cui stiamo partecipando è un dibattito che non tiene conto di quello che è la conseguenza per il popolo della notte, per il popolo dei giovani che in questo momento si sentono incoraggiati e non più in qualche modo bloccati con un minimo di remora ad utilizzare una sostanza che potrebbe essere in qualche modo qua evitata. Sull'aspetto però della remora introduce un discorso, vorrei farlo nell'ultima parte del 24 mattino, cioè perché io vedo sempre, per esempio nei discorsi dell'onorevole Binetti, a volte ne abbiamo affrontato anche da questo punto di vista, una sorta di stato etico che lei vorrebbe, però non mi risponda subito, vorrei sentire prima Francesco da Milano, poi la pausa per il traffico e poi approfondiamo questo, cioè lo stato etico, è uno stato che deve dire ciò che è bene e ciò che è male, lo sappiamo tutti che la droga fa male, come l'abuso di alcol, come l'uso, l'abuso delle sigarette, però non è, perché uno stato si deve arrogare il diritto di stabilire per legge ciò che una cosa fa bene e fa male e dire questo si può fare, questo non si può fare, però questo lo affrontiamo tra un attimo. Prima Francesco da Milano, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a lei, sì. Agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Guardi, io sono allibito dai discorsi che sento adesso alla radio, cioè innanzitutto mi domando quali sono questi effetti devastanti che la cannabis fa, perché non se ne parla, tutti parlano di effetti devastanti ma ne vorrei sapere uno. Secondo, sentito parlare adesso il suo ospite parlando del popolo della notte, ma cosa non sa come vengono usate le canne e quando? Perché il popolo della notte si mangia le pastiglie, si mangia gli acidi, si pippa la cocaina, al massimo le canne se le fuma qua da casa per farsi scendere tutta sta merda che ha pagato per 15 euro. Secondo, io ho degli amici in carcere perché avevano una quantità personale di 50 grammi, che la legge Giovanardi Fini considera al pari di 50 grammi di cocaina. Io li so gli effetti devastanti della cocaina, li ho visti, sì. Alcuni miei amici sono cambiati radicalmente. Fumo cane da 15 anni, faccio un lavoro, ho 33 anni, non ho mai ucciso nessuno, ho un cane, ho una vita, uno stipendio, ho un bellissimo lavoro. Che c'entra, non ho mai ucciso nessuno? Magari lei non lo sa, ma se si mette al volante magari i suoi riflessi sono molto più allentati. Questa non è un problema. Ma lei ha ragione, infatti. Se non ho ucciso nessuno è sbagliato. Al volante mi metto con una bottiglia di vino, sono allentati. Infatti la legge prevede che viene fermato e le ritira la patente. Ma questa è la cosa giusta, scusi, ma se uno si deve organizzare la serata pensando di rimanere uno in macchina che guida non beve, ma perché uno che guida e non fuma, cos'è la differenza? Torno a dire, è molto più pericoloso, perché l'alcol, voglio dire, viene considerato una cosa normale, il tabacco, no, lo stato etico, e allora eliminiamo le sigarette, perché in Italia ne muoiono di tabacco. Va bene, allora Francesco, lei ha posto un po' in maniera molto, molto anche appassionata a tutti quelli che sono i temi che voglio affrontare nell'ultima parte. Allora, onorevole Binetti, lei vuole lo stato etico, visto che... Allora, diciamo che detta così è evidente che lei la pone in modo un polemico, po' ironico, un po' polemico, negativo. No. Però le voglio dire una cosa. Primo, quando noi parliamo del fallimento delle politiche proibizionistiche, dovremmo in realtà parlare di un'altra cosa, del fallimento delle politiche educative. Perché noi abbiamo educato poco i ragazzi a due aspetti. Una, la conoscenza degli effetti negativi delle droghe, e l'altra ad avere una personalità più forte, maggiore padronanza di sé, maggiore capacità anche di fare delle esperienze che tutto sommato potrebbero essere considerate ai limiti, però di sapersi fermare prima che questa esperienza sia pericolosa. Però scusi, uno deve fare informazione, educazione, e d'accordo, sì, si può fare molto di più, ma poi uno purtroppo o per fortuna è libero di fare quello che vuole, cioè nel senso che non si può, come dire, non sono tutti pulcini i cittadini di 4 anni ragione, che devono essere tenuti in una campana di vetro. Però lo Stato ha il dovere, per tanti motivi diversi, di indicare una strada. Gliene cito uno che potrebbe sembrare forse quello politicamente più scorretto: curare una persona che ha contratto una tossicodipendenza costa. Curare una persona che ha contratto un tumore polmonare, ci sono mille motivi, ci sono tumori polmonari che derivano dall'esposizione all'amianto, tutta la tematica di vita, però ci sono tumori polmonari da fumo. Curare una persona perché ha un fegato spappolato, quindi perché ha una cirrosi epatica da eccesso, cioè tutto questo anche per la comunità ci riguarda, cioè la tua libertà individuale. Se tu hai un incidente e io sono la vittima del tuo incidente, la cosa mi riguarda. Però questo è un discorso che porta alla questione di disincentivare l'uso dei cibi grassi, perché sennò poi è molto dibattuta, per carità. Però il tema vero è che noi non possiamo pensare che la libertà individuale possa essere disgiunta da quella che è una responsabilità sociale. Cioè non possiamo pensare che tutto il tema nostro è un principio di autodeterminazione, perché io sono libero di fare. Ma questo è un dibattito culturale interessante. Vorrei la replica di Gozzi, ma prima mi permetta, Gozzi, vorrei che Caffiero rispondesse, rimaneva la domanda all'ascoltatore. Allora, che effetti fa una canna, Caffiero? Ma io non sono un medico e non mi arrogo il diritto di avrà visto comunque, ha un'esperienza, diciamo. Ecco, sulla base dell'esperienza, però mi viene da dire. Penso che questa risposta potrebbero darla moltissimi ragazzi che sono ospiti dei nostri 50 centri sparsi su tutto il territorio. Sono loro che possono darci effettivamente una risposta su quello che è stato il loro inizio, il loro rapporto con le sostanze. Ecco perché noi non ci permettiamo di fare differenziazioni. L'uso di sostanze altera le coscienze e modifica le persone. Poi ci sono persone come quel signore che ha chiamato, che ha detto che lui utilizza droghe leggere e sta benissimo, ha un lavoro, una famiglia, io sono contento per lui e non mi permetto di censurare il suo comportamento. Però mi voglio riallacciare brevissimamente al discorso dell'onorevole Biletti, che condivido pienamente, nel senso che quando lei ci pone la questione, lo Stato deve essere etico. No, lo Stato è etico. Noi siamo una società educante perché è basata su due concetti: famiglia e salute. Il diritto alla salute e la famiglia. La famiglia è un aspetto educante, quindi lo Stato di conseguenza è educante, laddove si premura di tutelare la salute dei cittadini. Vabbè, certo, educante è una cosa, etico magari è un po' diverso, non so. Io parlo di Stato educante. Educante, stato educante più che deve passare un messaggio educativo. Ma sì, certo. No, ma certo, deve passare. Pur rispettando la libertà di tutti, la libertà di individuare. Ecco, appunto, il messaggio educativo. Anche fumare sigarette. No, ma attenzione, Caffiero, io non sto dicendo, e vorrei su questo coinvolgere anche l'onorevole Gozzi, non sto dicendo che lo Stato deve dire le droghe fanno bene. No, lo Stato deve dire le droghe fanno male. Educare nelle scuole, su questo Gozzi anche lei sarà d'accordo, immagino, no? Non è che. Guardi, io sono d'accordissimo, inviterei il signor Caffiero a trarre le conseguenze del suo ragionamento, perché le conseguenze del ragionamento vanno nella direzione che noi proponiamo, perché noi diciamo le risorse che si otterrebbero oggi, risorse oggi inutilmente spese nel contrasto alla diffusione delle droghe leggere, potrebbero andare alla dissuasione, potrebbero andare al controllo, potrebbero andare ai programmi educativi, potrebbero assistere quelli che diventano eventualmente tossicodipendenti in modo serio e concreto, con molte più risorse. Questo è il primo punto, quindi è evidente che c'è un aspetto preventivo, educativo e che potrebbe essere, che è necessario e sarebbe possibile con la nostra proposta. Poi voglio sottolineare un'altra cosa. Però che c'è un po' di contraddizione, scusi Gozzi. No, io voglio ricordarlo. No, però sul punto che ha detto Gozzi, non sente un po' la contraddizione, cioè dire fare soldi attraverso questo tipo di legalizzazione, di mercato, per poi utilizzare questi soldi per dire la droga fa male. È un pochino... No, guardi, oggi è questo che stavo dicendo, a parte il fatto che questo accade in tutte quelle sostanze che con moderata quantità sono assumibili, con eccessi fanno molto male. È esattamente quello che accade con il tabacco. Non le sembra contraddittorio comprare un pacchetto di sigarette che le dice il tabacco si muore. Uccide, no, però certo. Pronto? Certo che è contraddittorio, come mettere le tasse, come mettere le tasse sull'alcol. Ma perché questo? Perché oggi il mercato delle cosiddette droghe leggere è libero. Ecco perché io contrasto chi vuole fare l'equazione legalizzazione uguale liberalizzazione. È oggi che il mercato è libero, con un'offerta indiscriminata e incontrollata. È oggi che il traffico relativo non è reprimibile con la forza. Con la legalizzazione vuol dire controllare, vuol dire maggiori controlli di un mercato che oggi è tragicamente libero, e questo approccio in Italia non ha dato alcun risultato, e prendiamone atto in maniera molto pragmatica, posto che gli obiettivi sono quelli. E poi un'altra cosa, guardiamo alle esperienze positive di altri paesi sulla riduzione del danno, dato che di questo anche stiamo parlando, si parlava di salute. Guardiamo cosa fanno la Germania, la Spagna, il Belgio, il Portogallo, la Svizzera, l'Olanda. Cioè non stiamo inventando qualcosa di totalmente nuovo, stiamo guardando alle esperienze di altri paesi e stiamo prendendo atto che l'approccio totalmente proibizionista italiano, in cui si va in carcere per coltivare alcune piantine di marijuana nel proprio terrazzo, è un approccio sbagliato. Allora, fatemi sentire positivi. I due ascoltatori, Pino da Pescara e Claudio da Napoli. Pino, che è lì da un po' di tempo. Pino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. Ma io sono completamente d'accordo con Francesco da Milano. Io no, sono un ex fumatore e la sera, per sbaglio, ho iniziato così. Però sono tranquillissimo, cioè ho anche una famiglia, un lavoro dignitoso. Sono andato, voi fate tante parole, parlate tanto, ma perché non andate in Olanda? La signora Binetti o il cassiero che parla tanto di recupero, quando nei centri di recupero quante persone fumano, e la nicotina sappiamo bene che è la prima droga al mondo per dipendenza. Sono tutte parole che lascio al tempo. Vabbè, che parole, però scusi, cioè, ognuno ha la sua posizione, c'è un dibattito politico. Marco Cafiero lavora, fa parte delle comunità terapeutiche, cioè, come dire, avrà una qualche esperienza, io non so, poi la sua opinione è discutibile come quella di tutti, ma avrà qualche esperienza, no? Ne avrà viste di persone che sono passate attraverso la droga un po' più di lei, Pino da Pescara. Andiamo a confrontarci con l'Olanda, dove ci sono i coffee shop, non vendono alcol. Bene. Ma in Olanda ci sono i coffee shop e in altri paesi no, insomma stiamo qui a dibattere su questo tema, non è che siccome in Olanda ci sono i coffee shop lì fanno bene sicuramente. Vorrei sentire, grazie comunque Pino, vorrei sentire Claudio da Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti, comunque guardi, io fumo da quando avevo 13 anni, adesso sono 54, ho 5 figli, la mia famiglia è tutto bene, e quello che è viva Scampia. Io a Scampia, lei mi parlava prima della fotografia che ha visto, che sembrava un po' triste, tutta questa gente in coda. Io tutta questa gente in coda la vedo tutti i giorni, tutte le mattine. E questa droga che vende la malavita fa molto male, ma perché fa molto male? Perché il canapaccio dove gli spruzzano THC chimico, quindi perciò fa molto male. Perché se invece sarebbe droga coltivata dalle case farmaceutiche, come fanno, controllata, è un esperto che, anche mi sembra, come fanno con l'oppio, che coltivano anche l'oppio, perché ci sono anche ragazzi che partono da Napoli e vanno nelle terre delle sarebbe case meglio. No, ma tu dici sarebbe meglio, dice Claudio, mi perdoni ma devo troncarla un po' così perché sono in conclusione. Ringrazio tutti gli ospiti, il dibattito come vedete è aperto e lo riapprofondiremo, noi riprendiamo sempre i temi, è una consuetudine. Ringrazio tutti, mi devo proprio fermare, a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.